Vorrei parlarvi ancora della corruzione e comincerò con una domanda. Cos'è corruzione? Non è che ci sono persone corrotte e altre che non lo sono. La corruzione o l'integrità sono stati della mente. Sono stati. Cioè sono configurazioni. Quindi la differenza tra gli esseri umani non è che c'è qualcuno che non è mai congruo. Si tratta di vedere quante volte lo è, in quali contesti. Diciamo che la coerenza è una delle funzioni dell'anima. Cioè, se sono nell'anima, soltanto se sono nell'anima, è equivalente a questo. Il che non vuol dire che sono uno solo e basta, sono uno come guida di me stesso, perché questi altri pensieri ci sono, ma a questi pensieri non si dà alcun peso, perché li si distingue. E quindi io sono integro nel momento in cui io divento la mia parola e la mia parola è integra. Ecco, chi capisce questa lezione ha capito tutto quello che serve, basta, è tutto qua, perché la coerenza, l'integrità è lo spirito, è l'unità. Se comunichiamo in due, siamo due a comunicare, ci sarà coerenza, se io sono coerente, sei coerente anche tu, allora noi ci capiremo. Se io sono incoerente e tu sei coerente e viceversa, chi è congruo capisce la situazione, capisce anche che l'altro non lo è, ma certo non riesce mica a comunicare bene all'altro, ci può provare, ma non è detto. Okay? Allora, quello che per me in questo momento è importante è comunicarvi che l'uso della retta ragione non è un optional, perché noi siamo ragione, siamo pensiero, il resto si condividiamo con gli animali. E quindi si tratta di vedere se il pensiero che frequentiamo è retto, cioè coerente, oppure no.